ruota. Ok. Vai con la ruota. No, vabbè, allora vado. Gira la ruota. Non perdiamo tanto tempo con girare la ruota. Giro io e basta, dai. No, perché? Di aglio. Ma scusa, ma la A esce sempre. Sei sicuro che il grillo è a posto? È certo che è a posto, funziona benissimo. Scusa, ha detto A di aglio, facciamo A di aglio. Sì, stavolta aglio. Facciamo aglio, i vampiri. Quante robe ci sono da dire sull'aglio? No, però aglio no. Aglio è il soffritto, no? Aglio, cipolla, soffritto. Si finisce a parlare di quelle cose lì, ci sono già troppe trasmissioni di allora, cucina in TV. A come attualità. A come attualità dice A di armi, insomma, no? Come armi, ma siamo all'asilo, Drago. Dobbiamo fare l'enciclopedia sonora per i bambini. Tu parli delle armi? Ma vabbè, certo, le armi automatiche, addirittura qui siamo in presenza di una doppia A, armi automatiche, sono al centro dello scontro epico tra il presidente americano Obama, bambino Alberto, e tutte le organizzazioni che promuovono l'uso personale di armi di tutti i tipi, comprese quelle adesso, automatiche. Ma cosa c'è, la guerra civile di nuovo? Quasi, insomma, non è ancora cominciata, però potrebbe succedere presto, perché sembra che sia la volta buona che il governo americano faccia delle leggi per limitare l'accesso alle armi automatiche al grande pubblico. L'ha annunciato Obama in persona. Sì, ma non ho capito cosa vuol fare delle armi non automatiche. Per quelle ci vuole tempo. Insomma, cominciamo con quelle automatiche, no? Allora diciamo che se passa la legge di Obama, per fare una strage tipo quella di Newtown, Newtown, Stati Uniti, non la Newtown dell'Aquila, ci vorrà più tempo. Sì. Però si potrà comunque fare. Vabbè. Cioè, perché l'arma non automatica ti costringe a ricaricare l'arma stessa. Quindi diciamo che mentre Obama riflette su questo argomento, ad Albuquerque, in New Mexico, un ragazzino di 15 anni ha sterminato la famiglia usando uno dei tanti fucili automatici posseduti dai genitori. Automatici. Bang bang shoot shoot. Lo dicevano i Beatles dall'Inghilterra. La felicità è una pistola calda. Sì, ho capito, calda. Ma in Inghilterra le con armi. La bindella ventilata. Sì, non le può portare nemmeno la polizia, le armi in Inghilterra. Ah, no. E non puoi nemmeno andare al supermercato a comprarti un fucile, munizioni e tutto quanto. Comunque, quindi, parlando di armi, Drago, non possiamo dimenticarci il film documentario di Michael Moore, Bowling for Columbine. Certo, ti ricordi? Sì. Sconvolse l'Europa, ma lasciò abbastanza indifferente l'America. Ma loro sono così, è vero. Perché chi non ricorda la maestosa e un po' ridicola figura del grande attore hollywoodiano Charlton Heston, Charlton in quel Heston. Film lì faceva se stesso, te lo ricordi, bambino Alberto? Sì, Ben Hur, no? Sì, ecco. Però non si capiva bene perché sembrava che recitasse la parte del tipico americano reazionario che vede il mondo come al tempo del West, no, Charlton Heston. E invece non stava recitando, è proprio lui che è così nella vita, uno che in nome della libertà individuale non si preoccupa affatto che molte persone hanno un'arma, ma non hanno i requisiti psicologici per averla. Pensa adesso come sarà incazzato con Obama. Ma chi? Charlton Heston. No, ma guarda che... Ma cosa? Charlton Heston. Ma come? Ma Charlton Heston. John Charles Carter, dopo aver girato tutti i film possibili sull'antica Roma, il West, eccetera, anche lui, alla bella età di 84 anni... è morto. La cosa strana degli americani, Cap, è che un giorno sembra che siano compatti, favorevoli all'uso di armi per tutti quanti. Sì. E il giorno dopo sospendono dall'asilo una bambina perché giocava con le amiche sparando acqua col suo fucile di Hello Kitty, quello rosa pieno di cuoricini. Sarà per quello, perché era rosa e pieno di cuoricini. La poveretta ha pure dovuto sottoporsi a una visita psichiatrica che probabilmente non avrà fatto bene alla sua psiche, sai com'è. Vabbè, ma in America... Se tu sei normale, ti fanno la visita psichiatrica. Ho capito, ma lì sono tutti sul chi va là, hanno paura che i bambini... siano tutti matti, capito? Che poi facciano la fine di Kurt Cobain e quindi li riempiono di Ritalin, proprio come Kurt Cobain. Ma cos'è, cos'è questa musica? È un film del terrore. E io ho paura, qui mi sento solo. Ma noi... Sono tornati. Oh, è stato un incubo. Voi dove eravate? Io vedevo tutto scuro. Tutto la tranquillo, nebbia. Eravamo qui all'asilo. No, allora ho vissuto un'esperienza. Era una canzone di Kurt Cobain, questa qua. Di Nirvana. Sì. Lo stato di Nirvana, che... cioè c'è una specie di sensazione di. Sì, vabbè. Comunque ci sono delle corrispondenze tra l'uso degli psicofarmaci per i bambini e le stragi che vengono compiute. Ma questo lo dici tu. Con le... No, lo dice Maria Grazia Bruzzone dalle pagine della Stampa. E chi è? È quella criminologa belloccia che ogni tanto c'è in televisione bionda, tutta truccata. Ah, quella che parla di Vespa. Sì, che parla di cose tremende con quell'aspetto molto invece florido e bello. Lo dice Va bene. Lei. Allora, bambino Alberto, queste armi automatiche, cosa pensi del discorso che abbiamo fatto prima sulla bambina che giocava con il suo fucile automatico finto di Hello Kitty ed è stata espulsa dalla scuola? Ma non era un fucile automatico. Vabbè, un fucile, una pistola, non lo so, ad acqua. Guarda che fa la differenza. Anticipandum che non ho capito praticamente nulla del discorso, no? Sì. Solo questo fatto di questa bambina che, poverina, giocava col suo fuciletto di Hello Kitty ed è stata pulita, no? Sì. Ecco, bravo. Lei, qui... Lei. Qui. E qui no, noi non possiamo neanche giocare. Io non posso neanche giocare con le armi. Con le armi finte. Le armi giocattolo. Vabbè, quelle di Hello Kitty. I miei genitori me le hanno vietate. Dico, ma dato, non sparano. Ma è il concetto che conta. Perché tu impari ad aggredire. Insomma. Ma i tuoi genitori sono appunto comunisti. Quindi. Allora, scusami. Però quindi, tuo padre. Però, mio padre. È già mio padre. È l'anticaccia. Quindi ha un fucile. Mio padre è socio onorario tramite. Sì, vabbè, lo eredità. Sappiamo. Di un fucile arcicaccia di una testa di cacciatore. Fucile. Quindi abbiamo in casa un fucile vero, no? Vedi, come gli americani. La faccia della democrazia. Sì, però è chiuso in una teca. Beh, ci mancherebbe altro, è pericoloso. Ma io non la voglio neanche usare, ho paura, non mi piacciono le armi. Però quelle finte per giocare, sì, no? Scusate. Visto che i miei non me le fanno usare, le armi giocattolo. Sì. Tramite 50 euro che voi magari generosamente potreste darmi, tramite io potrei andare a fare una giornata di soft air, no? Sì. Soft air, sì, sapete cos'è? La no? guerra simulata. Cioè guerra simulata. È finito, no? È un gioco. Ah, quelli che si sparano perché soft air non è paint. Ma sì, ci sono anche quelli con la vernice, però ecco, sono no, tutti soft air. No, questi sono tutti sono proiettili finti di ceralacca, di gomma pane, roba del genere, no? Sì, quindi vuoi giornate 50 euro che voi previo mi avete dato. Entri, ti danno la tuta, no? La tenuta da battaglia, tutto. E dove vai? Mimetizzato e vai in un bosco, no? Ah, con le armi finte fai parte di un plotone, di un team. Certo, ma mica l'asilo. Sono cose serie, lo fanno anche per l'educazione dei bambini. Per crescere coraggiosi, certo. Per stimolare lo spirito di gruppo, l'iniziativa. Capito? Poi ho letto tutto il Depert, sì. È vicino a Milano, mi portate voi, mi lasciate lì a prendere le 7 di sera. Sto parlando di attivazione adrenalinica. Vabbè. Che nel Depri c'è scritto. Capito? E che cosa, in cosa consiste? Non ho capito, però è una cosa che sembra fin d'azione. Attivazione adrenalinica, capisci? Poi se tu hai dei problemini, tipo lo stress da incertezza, no? Sì. Io penso di soffrire di questo problema. È uno stress da incertezza. Quando dici, io adesso chi sono, cosa faccio? Vabbè, e ti viene un po' di stress. Il soft air, se vai in giro con Kalashnikov finto, te la fa passare. Perché certo. Trovi davanti uno, un energumeno con una mazza, dice, uè, ho mors tua vita mea. Dico, no, mors tua. Allora tiri fuori il Kalashnikov e spari la gomma pane. Pim, pim, pim. Però becchi e hai vinto. Capisci? Con la gomma pane. E lui muore. Ma sì, e muore, finge di morire. Ah, finge. Finge perché in realtà la gomma pane. ABC! Un programma di Cappa e Drago. A, B, C, A, B, C, E. Soffè, tu hai 50 euro. Mi aspetti fuori? Prendi una fettina di cocco mentre io. Soffè!